questi fattori chiaramente di cui si è parlato nella, anche nel modo della solidarietà, che poi era anche quella non soltanto nel momento in cui avveniva un fatto e occorreva un aiuto, diciamo così, di carattere economico perché erano morte le vacche, ma c'era in qualche modo anche quella della, del ricambio anche della prestazione, cioè ci si aiutava per lo scambio della manodopera, che era fondamentale, che era anche un modo di stare insieme. Peccato che questo da noi poi non è riuscito in qualche modo anche a modificare questo stato individuale con cui si viveva in questa condizione per sviluppare probabilmente la cooperazione, perché poi non si è avuta questa possibilità, che invece cioè, c'era nell'azienda del datore di lavoro. Poi nel momento in cui si è avuta anche la possibilità di acquistare, diventare coltivatori diretti, perché c'è stato anche il processo di industrializzazione, noi siamo anche famosi per i metalmezzadri, cioè di quei lavoratori che sono rimasti legati alla terra, ma hanno dato poi in qualche modo, sono andati in fabbrica perché lì si realizzava in qualche modo un reddito diverso. Nel Fermano diciamo che questa cultura si è modificata ancora più forte, perché dalla mezzadria si è diventati imprenditori. Cioè, se pensate che la provincia di Fermo è la provincia più artigiana d'Italia, dove è nata in qualche modo la scarpa, che, perché anche la mezzadria, a questo punto di vista, è stata anche capace di mettere una dinamicità nell'imprenditore, perché in effetti il mezzaro era anche una forma di imprenditore, oltre che di prestatore per il datore di lavoro, perché la conduzione anche di un terreno non era soltanto quella, diciamo così, di saper coltivare, che si è visto che i mezzadri del Piceno sono stati abilissimi, perché tutta l'ortofrutta oggi della zona di Rimini, Cesena, ma anche di quello che si è sviluppato nella Toscana, è frutto in qualche modo anche di questa capacità del saper fare. Una parte, vabbè, una parte però diciamo anche importante che si è sviluppata. In termini di valori probabilmente credo che si sono persi, cioè il processo di industrializzazione ha determinato anche un modo di vivere nel rapporto anche tra il lavoro, lo stare insieme in un modo anche diverso. Questo credo che non, forse nella cultura ancora diciamo così ci si riesce un po' a tramandarlo, però non è praticato, insomma, se la domanda è questa, insomma, cioè, nel senso, ecco. Però ecco, dal punto di vista per esempio, credo che questo sia anche interessante conoscere, diciamo, questo sviluppo che si è avuto anche nella impresa marchigiana, che non dobbiamo prendere come modello, cioè è stato dinamico, ha portato anche le Marche a crescere, però è stato fatto anche con bassi salari, cioè nel senso che nella famiglia diventava tutta la famiglia lavorava intorno al prodotto, cioè intorno alla scarpa, diciamo, e al modello, almeno questo nell'area fermana, perché lì c'è un'industria, diciamo così, che è monocultura, cioè si fa solo scarpa. Adesso meno male si comincia probabilmente anche a lavorare sulle attrezzature, sulle tecnologie per fare la scarpa, però era il lavoro che si faceva in fabbrica, ma poi si riportava dentro casa, e quindi sono stati problemi anche grandi rispetto all'utilizzo dei collanti nelle famiglie, con problemi anche e quindi con una crescita economica anche troppo rapida, che probabilmente poi non fa sviluppare nemmeno dal punto di vista culturale. Questo probabilmente modifica, quando diciamo così l'accrescimento economico è repentino e veloce, non c'è la stessa misura dal punto di vista culturale, significa che c'è un arretramento dal punto di vista diciamo così politico-sociale.